30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Il mondo ha raggiunto l'obiettivo di sviluppo del millennio di dimezzare la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile e l'ha fatto in anticipo rispetto alla scadenza. Tra il 1990 e il 2010, oltre 2 miliardi di persone hanno avuto accesso a fonti migliorate d'acqua potabile tramite reti idriche e pozzi in cui la qualità dell'acqua è soggetta a controllo. Buonasera, benvenuti al nuovo appuntamento con 30 minuti in cronaca. Dunque, l'acqua al termine di una settimana che ha visto una grande adunanza in quel di Marsiglia. È stata infatti l'occasione per raccogliere il sesto forum mondiale, forum che è stato anticipato dalla notizia che abbiamo citato in apertura, quindi un risultato raggiunto, un obiettivo conquistato anche prima del tempo, ed a questo aspetto partiamo questa sera. La nostra prima ospite è Roberta Bernocco, responsabile dei progetti idrico-sanitari di Amref Italia. Buonasera, grazie di essere con noi. Pronto, buonasera, grazie. Dunque, a voi. Dunque, innanzitutto una buona notizia, cosa che non mi dispiace sottolineare in tempi in cui sono un po' carenti. Ecco, sull'acqua sono stati fatti dei passi avanti. Beh, sicuramente è un'ottima notizia quella di aver raggiunto prima del 2015 il target dello sviluppo del millennio relativo all'acqua. Quindi per noi ovviamente è motivo di contentezza e di anche possibilità di aprire nuove situazioni e di migliorare la salute delle comunità. Questo però è anche una contentezza, diciamo, un po' amara, perché nonostante questa grande risultato, è anche vero che il risultato è raggiunto a livello mondiale, ma per quello che riguarda i paesi del Sud Sahara, quindi i paesi sudsahariani dell'Africa, dove Amref lavora principalmente, questo obiettivo non è così ancora raggiunto. Ecco, a proposito di obiettivi, io appunto ho voluto, lo ribadisco, partire con una buona notizia, ma c'è un altro lato di questa storia. Cito il direttore generale dell'UNICEF, Anthony Lake, ricorda che ogni giorno più di 3.000 bambini muoiono per malattie legate alla diarrea, che se è vero appunto che i dati sono positivi, resta il fatto che l'11% della popolazione mondiale, qualcosa come 780 milioni di persone, non ha ancora accesso all'acqua potabile. Miliardi di persone, circa 2 miliardi di persone almeno, non hanno accesso ai servizi igienico-sanitari. Ecco, non volevamo dare un'impressione, come dire, abbiamo chiuso la questione con l'acqua, tutt'altro. No, la sensazione è che la questione dell'acqua stia finalmente emergendo come un complesso problema, con una crescita demografica importante, con un miglioramento anche economico di alcune zone del mondo. Pensiamo all'Africa, ma riflettiamo anche sui BRIC, il Brasile, la Russia da una parte, ma lì l'acqua è meno un problema, sicuramente la Cina, milioni e milioni di persone che accedono anche a un tipo di vita diversa. Bene, l'acqua non è infinita. Sicuramente l'acqua non è infinita, ma è il mezzo principale per garantire e migliorare una salute migliore alle popolazioni, per prevenire, come avete già detto, moltissime malattie. La diarrea è una delle principali cause di morte infantile e rimane una delle principali cause della morte infantile sotto i bambini sotto i 5 anni, ma a questo si lega una scarsa igiene, una impossibilità di impegnare il proprio tempo quotidiano in attività lavorative, perché il 50% del tempo, soprattutto di donne e bambine, anche qui in paesi che con scarso accesso all'acqua viene passato a raccogliere l'acqua e a cercare l'acqua. Quindi non questo... avere accesso all'acqua significa anche doverla andare a prendere, a volte le distanze sono impressionanti, noi facciamo fatica a immaginare che cosa significhi magari viaggiare con una tanica per 5 km a piedi e tornare, e non è una distanza diciamo forte quella che cito, c'è chi ne fa anche di più. Soprattutto se si immaginano che moltissimi bambini, anche molto piccoli, sono quelli che poi insieme alle mamme vanno a raccogliere l'acqua nei vari fiumi o nelle varie sorgenti. E questo è diventato ancora più difficile dal luglio dell'anno scorso la grave siccità che ha colpito il Corno d'Africa ha ovviamente peggiorato le distanze da percorrere per queste persone in ricerca di acqua non solo potabile. Ecco, ecco dottoressa Bernocco, lei con AMREF, che lo ricordo è un'organizzazione non governativa appunto centrata, africana di fatto, centrata in Africa, lavora ormai da qualche anno in Africa orientale. Allora, lei prima nell'introduzione ci diceva che certo è un dato che migliora complessivamente, però ci sono molte zone in cui in realtà le cose non stanno andando come vorremmo. Qual è la situazione in Africa occidentale e orientale da questo punto di vista? Beh, assolutamente la situazione è ancora molto triste. Il 40% della popolazione che vive nelle aree subsahariane non hanno accesso a un'acqua potabile. Ovviamente l'acqua potabile è quella che significa essere pura, quindi che previene le malattie, e che è quella potabile è la più anche difficile da trovare. Infatti il problema non è che non ci sia acqua in Africa, l'acqua c'è, ma è difficile avere accesso a un'acqua sicura, un'acqua pulita. Perché? Perché l'acqua potabile i governi non hanno ancora a pieno sviluppo, e non è ancora in molti paesi africani non è ancora una priorità avere un'acqua pulita, sana e che aiuta la crescita della popolazione, quindi non ci sono infrastrutture così definite tali per accedere a un'acqua sicura. E quindi la maggior parte della popolazione, soprattutto in paesi dove il 90% della popolazione non vive in città ma vive ancora in zone rurali, fa accesso a un'acqua che non è sicura, fa accesso all'acqua dei fiumi, all'acqua delle sorgenti, ma che non sono acque potabili, quindi acque sicure per la loro salute. Il pozzo è un vero e proprio simbolo di una certa immagine della cooperazione occidentale in Africa, è ancora l'attualità, voglio dire, ancora lo strumento di accesso a un'acqua di qualità? Ma sicuramente il pozzo lo è ancora tutt'oggi, lo è stato anche per AMREF per molti anni, ma diciamo che il pozzo è un mezzo per arrivare appunto a facilitare insieme, a lavorare insieme alle comunità per facilitare questo accesso a un'acqua pulita. E quindi acqua pulita significa migliorare le condizioni igieniche e sanitarie, migliorare l'alimentazione, migliorare anche le piccole coltivazioni che spesso si associano poi a uno sviluppo di un pozzo, almeno nella metodologia di AMREF il pozzo è proprio considerato un mezzo per arrivare a una salute migliore per tutta la comunità, è soltanto uno strumento. Ovviamente avendo un costo si aiuta la comunità a sostenere questo costo. Ecco, a proposito di costi, a proposito di questa settimana di fatto dedicata all'acqua, tra un momento parliamo anche di conflitti intorno alle risorse idriche, però vorrei che ci ricordasse l'iniziativa su cui state lavorando, c'è una richiesta d'aiuto, prego. Sì, AMREF ha lanciato proprio l'11 di marzo questa settimana di campagna che si chiama Acqua al Centro, una campagna nazionale E la campagna nasce proprio dal voler ricordare che l'accesso all'acqua pulita è comunque un diritto umano fondamentale per tutti, e che in alcuni paesi dell'Africa questo diritto appunto è ancora negato, il 40% della popolazione non ha accesso all'acqua potabile, quindi anche causato anche da questa grande siccità degli ultimi sei mesi che ha colpito il Corno d'Africa, questa necessità è ancora più viva ed è ancora più importante. Voi chiedete una mano e lo dico per i nostri ascoltatori, anche sul sito, no? Ci sono tutte le indicazioni, chiedete un aiuto pratico, 2 euro fondamentalmente, per aiutare appunto a costruire una possibilità di accesso migliore per molte famiglie, per molte persone. Torniamo tra un momento con Roberta Bernoccolo, ricordo responsabile dei progetti idrico-sanitari di Amref Italia, e ripartiamo appunto da quella che emerge anche come una sorta di inevitabile contraddizione: le condizioni migliorano, l'accesso all'acqua cresce, ma la richiesta cresce ancora più rapidamente. 30 minuti in cronaca. L'acqua al centro di questa puntata di 30 minuti in cronaca con Roberta Bernocco, responsabile progetti idrico-sanitari di Amref Italia. Alcuni dati ci voleva dare, prego. Sì, alcuni dati giusto per far capire il livello anche di incidenza che poi questa attività sull'acqua hanno. Un esempio, il Kenya. Amref è presente in Kenya dal 1999, Amref Italia con progetti idrico-sanitari, e da quella data abbiamo sostenuto più di 800.000 persone proprio attraverso la costruzione di pozzi, che sono stati 2.136, 100 chilometri di acquedotti, 7 dighe, ma la cosa importante è che queste attività, tutte queste costruzioni sono state costruite in partnership con le comunità, quindi noi non è che facilitiamo l'accesso all'acqua, ma facilitiamo anche la crescita di quelli che sono gli strumenti della società civile, come i comitati dell'acqua, che poi garantiscono la gestione di queste fonti d'acqua rinnovate o costruite, e che quindi garantiscono anche la sostenibilità negli anni di queste costruzioni. Ecco, l'approvvigionamento è stato a lungo, e lo sarà ancora a lungo, la questione centrale, ma la gestione, la condivisione tenderà sicuramente ad emergere come il problema prioritario, magari tra 20 anni, tra 30 anni. Mi spiego. L'Africa, come ci diceva la dottoressa Bernocco, è un continente in cui l'acqua c'è, e allora l'esempio utile magari ci porta al Nilo, il più grande dei fiumi che l'Africa di fatto la attraversa per metà, dal centro a nord. Ci sono 7 nazioni lungo il suo corso. In questo periodo l'Etiopia sta progettando e costruendo nuove imponenti dighe. Insomma, esistono ragioni di forte tensione, perché naturalmente l'acqua non è comunque infinita e lo sfruttamento è forte. Dottoressa Bernocco, in conclusione, lei sembra che la questione appunto della gestione e conflittualità dell'acqua sarà prossima come nelle vostre, diciamo, problematiche, oppure più una questione da politologi per il futuro? No, sicuramente lo sarà. Quello che ci auguriamo per il futuro, e che già in questa settimana si è dibattuto molto al World Water Forum a Marsiglia, è quello che, il fatto che l'acqua comunque rimane un diritto umano, ed è importante attivarsi su tutti i fronti, dal punto di vista politico, con i governi, ma soprattutto come società civile, e che la società civile in Africa è anche molto forte, perché la comunità è proprio uno dei mezzi, una delle strutture principali sociali di questi paesi. Sicuramente è un dibattito molto aperto. Amref lavora da sempre, uno dei pilastri proprio per garantire la sostenibilità e lavorare insieme alle comunità, ma anche rafforzare le loro competenze, e quindi in questo noi speriamo come elemento positivo del futuro. Grazie a Roberta Bernocco, responsabile progetti idrico-sanitari di Amref Italia. Vi ricordo, per la campagna Acqua al Centro trovate tutti i dettagli su amref.it. E adesso, nell'ultima parte di questo nostro appuntamento a 30 minuti in cronaca, parliamo proprio di come le risorse idriche siano storicamente al centro di progetti e costruzioni e attenzioni militari. C'è chi l'ha studiato, c'è chi studia queste tematiche. Laura Genovese, archeologa, storica dell'architettura, buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera, buonasera a tutti. Sì, in effetti nell'ambito mi sono occupata dell'ambito euromediterraneo e le problematiche in riferimento all'acqua e alla guerra in realtà sono veramente una costante. Io in particolare mi sono occupata della poliorcetica antica, e nell'ambito delle mie ricerche ed è effettivamente venuto fuori che l'interesse per le modalità di approvvigionamento idrico, ma anche per la difesa dell'approvvigionamento idrico in ambito militare, sono state di interesse, un interesse strategico in assoluto. Infatti l'acqua, l'interesse per questo elemento era prioritario fin dalla scelta dei siti da fortificare o nei quali stanziare anche solo temporaneamente, e la difesa dell'approvvigionamento, delle fonti di approvvigionamento, come anche la privazione dell'accesso all'acqua come elemento strategico e offensivo, sono delle costanti nella guerra. Insomma, dei fattori chiavi, tra l'altro poliorcetica, la professoressa mi concede la traduzione perché io l'ho letto nel vostro studio, è l'arte dell'assediare ed espugnare città e fortezze. Ora, noi abbiamo parlato in questo contesto degli obiettivi del millennio, qui magari non si tratta di espugnare, ma privare o controllare l'acqua altrui rimane un fattore chiave a 2000 anni di distanza, prego. Sì, esattamente, perché l'acqua è necessaria per tanti elementi, non solo per la sopravvivenza, ma anche per l'espletamento di funzioni quotidiane. Nel passato era l'abbeveramento degli animali da guerra, ma in realtà l'acqua è fondamentale per tutte le attività del quotidiano, ed effettivamente ancora oggi chi gestisce le risorse idriche ha un potere assoluto su chi invece ne viene privato, e la cosa straordinaria ma al tempo stesso temibile è che ancora oggi molte guerre in tutto il mondo vengono combattute privando i propri nemici dell'acqua, o sono guerre più sottili, sono guerre di strategiche, di equilibri politici che si giocano esattamente su chi detiene il controllo di questa risorsa, che peraltro è un bene esauribile, per cui è ancora più necessario detenerne il controllo. Dalla percezione della risorsa illimitata alla consapevolezza che la risorsa è limitata. Oggi questa sera abbiamo parlato anche di crescita, di miglioramento, ma nello stesso tempo la pressione demografica non fa che aumentare. Sì, sì, esattamente. La cosa che è emersa e che ho cercato di mettere in evidenza nei miei studi e nella mia pubblicazione in particolare è questa attenzione nei confronti di tecniche tradizionali, e che a mio avviso potrebbero essere un'opportunità se rivitalizzate in futuro, perché evidenziano un approccio nei confronti di questa risorsa che non è solo di sfruttamento inteso come dissipazione, ma è proprio un approccio nei confronti di questa risorsa che è di attenzione, di venerazione se vogliamo, e soprattutto di sfruttamento sostenibile. Quindi a mio avviso dalla poliorcetica antica si possono trarre moltissimi insegnamenti di strettissima attualità, dalla comprensione di dinamiche storiche e quindi di dinamiche strategiche su come funziona a livello politico l'equilibrio tra chi detiene una risorsa così importante, e al tempo stesso all'opzione, alla possibilità che il recupero di tecniche antiche nello sfruttamento e soprattutto questo atteggiamento di attenzione e di protezione delle risorse idriche può essere un'opzione di sviluppo sostenibile per le società moderne. Laura Genovese, so che c'è un bel sito, tra l'altro con delle immagini bellissime, ce lo vuole citare per cortesia? Sì, www.watershades.eu è il sito di un progetto europeo che si è appena concluso e speriamo si possa rinnovare in futuro e che riguarda proprio i beni culturali legati all'acqua con varie opzioni di valorizzazione ma soprattutto di disseminazione della consapevolezza che esiste non solo un ampissimo patrimonio che nei secoli è stato costruito ed è legato all'acqua ma soprattutto per attirare l'attenzione su questo elemento che è legato anche a tutta una serie di patrimonio intangibile in termini di tradizioni culturali che sicuramente vanno conservate per i nostri posti. Grazie a Laura Genovese, lo ricordo, archeologa, storica dell'architettura, un sito davvero dove al di là delle fotografie bellissime, gli acquedotti romani, insomma dei veri e propri simboli anche culturali così presenti nella vita quotidiana della nostra cultura, ci sono spunti per esplorare e ragionare con un approccio che non può essere che multitematico, per ragionare appunto su questo bene straordinario di cui questa settimana a Marsiglia si è lungamente parlato e dibattuto. Siamo in conclusione, non mi resta che darvi appuntamento con 30 minuti in cronaca sabato prossimo alle 19:30, augurarvi un ottimo fine settimana.